Santa Lisa? Yeah. Ma mai quello sono i segnali? Tradizione. Avanti la frequenza dalla città di Sassa e avanti, avanti qua in zona Porta Torres. No, qui non siamo città di Sassa di nuovo. Vabbè, la provincia comunque sia, anche più lontano, dai. Però sei più in alto, così che sei anche a favore, ciao Antonio. Buonasera anche a te, ben intendi tu. Dove sei, a Porto Torres, zona Porto? Perfetto, perfetto. Come mi ascolti? Benissimo, 9-5, 9-5, sempre 9-5. Un buon segnale, dai, io vabbè, con l'antenna 2001 sono adesso però, Antonio, ho piazzato lo stilo grande, una frusta è questa antenna, una frusta. No, va, è più che bene qua, non so se l'ha parato, l'antenna, la zona, non lo so, pure se è in macchina vedi più che bene. È tutto l'insieme, Antonio, è tutto l'insieme, credimi. La macchina è una scatoletta, diciamo, ma in sé non è che sia proprio l'impianto, un buon impianto, ci ho capito? Ma no, poi ho fatto sta che va bene, anche io ce l'ho a turbo 2001, già si difende, porca miseria, è che è un pochettino vistosa, ma già fa la sua importanza anche lì. Aspetta, tra 5 minuti dovrei andare. Aspetto che la signora mi butta a voce. Devo dire, domenica mattina verso le 10:30 sei libero per incontrarci lì in Piazza dei Segni? Antonio, dovrei sapere i turni perché abbiamo un po' di difficoltà adesso con i turni a lungo termine. Perché? E dopo lo sappiamo giorno per giorno, perché ci sono un po' di variazioni, sono tariffe, diciamo così, come sia. Ecco, lo saprei praticamente il giorno prima io, se lavoro di mattina o di sera. Questa cosa qua, quando la fate di mattina? Giustamente, se il tuo tempo è materiale, sì. Facciamo, ci incontriamo alle 10:30 a Piazza dei Segni, domenica, per definire un po' le cose e racimolare il tanto per andare avanti per questa iniziativa che si è deciso, ma bene o male si saprà definito domenica il 6 dicembre, ma cosa sto dicendo, scusami, 6 gennaio alla Befana. Se tutto va bene, sì, sembra bene o male, sono tutti d'accordo, poi per avere la risposta definitiva saprà domenica mattina. No, allora Antonio, allora te lo devo già dire in partenza, perché io il prossimo mese, diciamo così, parto, vado su proprio i primi di gennaio, che ho una cosa di Canora, diciamo, di un concorso, e vado lì a aprire questo concorso. E rimango proprio il giorno della Befana, si fa questa manifestazione, diciamo, su Ammirandola di Modena, capito? C'era un altro giorno, problemi non ce n'erano, ma se sono Gulibaro venga a farmi un lanciare a metà, l'ho preso. Guarda, sapendo che sono fuori dal turno di mattina, se le 3 di mattina vengo, ci incontriamo, così ci conosciamo anche, via dicendo. Poi non c'è problema, ma giustamente se hai impegni non c'è problema. Vabbè, dacci una tua foto così la mettiamo lì e se partecipa anche tu. Beh, ci vediamo appunto, dai, se a me fa piacere, veramente, quando se sono che non sono in turno domenica vi faccio un salto così appunto. Ci facciamo una chiacchierata, ma ci conosciamo anche, capito? Visto che non ci conosciamo in verticale. Non c'è problema, se sei libero già ci trovi lì. La vedrai le macchine, noi tutti insieme, poi sicuramente non credo che faccia bella giornata, dunque ci rintaneremo in qualche locale, così un caffettino e discutiamo. Cappadero, c'è anche il vero capitanucino vecchio di vicino. Quello già è vero, ma alle 10:30 non credo, del mattino non credo che sia aperto, ecco. Sì, se non chiude per turno settimanale, diciamo così, di domenica è aperto, sì. E allora Antonio, qui c'è il crisi che vuoi, ui, se mai nemmeno vittore fa giusto qua fa un euro. E quello pienamente d'accordo e confermo, ma speriamo, andrà bene, va bene anche lì, dopo nel caso se c'è il numero di qualcuno, chiami, vedo un po' se lì presente e poi ti diciamo, mandando se non ci trovi, dove ci troviamo, ecco. Mario Roger. E lì il tempo com'è? Abbastanza freddo, sì? O c'è il riscaldamento acceso in macchina? No, è negativo, io in macchina sto bene, sono un bello coperto dal giubbottone, sai? Io sono abbastanza tappato, Antonio. Temperatura 11 gradi qua. Un po' di venticello che però queste ultime ore ha passato, la verità, c'era molto molto più vento nelle prime ore del tardi pomeriggio, diciamo, a quest'ora è già abbassato. Nave partita puntuale, tutto regolare, tutto liscio come l'olio per adesso. Speriamo che non si metta stanotte. Anche i canotti che hanno aggiudrumito, ma c'era un casino di vento, guarda, mi sono anche svegliato alle 2 di notte, vedi come sbatteva. Io ero a Olbia stamattina per una giornata di lavoro e sì, qualche pioggia leggera, ma niente di più, nuvoloso, ma proprio vento, no? Anzi, c'è stata anche almeno due orette che il sole si è fatto sentire, è bello caldo. Meglio così, la zona, guarda, ma qui da noi è giusto che siamo parte di mare. Ma nega è che il vento magari, capito, è come posto più ventoso di altre parti, solo perché appunto è un posto di porto, di mare. E quello sì. E niente ragazza, no, per farti compagnia, per scaldare un po' la serata. Una coperta. Una coperta e già va bene ugualmente, già sei in dolce compagnia allora. Una coperta, Antone, una felpata, davvero, il paese. Avanti con il breco. Avanti il breco con la buonasera. Chiedo già uno, l'ho copiato bene, no? Scusa l'amico, non ti ho copiato, fai la cortesia, rifai un passaggio. Lo copio, ho sparito nel nulla, tu riesci a copiare già lui. Alle Canarie. Ma sì, il segnale va e viene, a volte ci sia, io capito Canarie, ma mi sembra strano. Non ti ricevo molto bene, che zona ti trovi? Non ho portato neanche bene il tuo nominativo, qui Barracuda, Modulazione Ossi. Antonello, scusate un attimino, non so chi è entrato, ho sentito un break, però sono dovuto scendere un attimino. Un secondo, Antonello, così saluto anche i nuovi ingressi in ruota, un attimino, eh. Ehi, sotto... Tirando fuori, buonasera, Barracuda, Modulazione Ossi. Segnale mio, come da quelle parti? Perfetto. A trabacco ancora, o rientro? Antonelli, dai, ti do saluto, salutare anche gli altri amici un attimo della ruota. E un attimo del QRX, diciamo, perché mi devo spostare un attimo, devo scendere, Antonelli, ok? Ehi, tranquillo, non ti preoccupare, vai tranquillo. Ciao Antonelli, casomai si coincide dopo, mi fa piacere, ciao dopo. Via, buon divertimento. Attento a Pablito, se colpieggi. Ehi, buonasera, ben sentito, riporto Barracuda, Modulazione Ossi. Sicuramente sei in movimento, dunque bene o male il segnale si vede che va e viene, ma riesco a tirarti fuori, dai, buonasera e ben sentito.